Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. Ci resta ora di sapere notizie di Athos, disse D'Artagnan all'arzillo Aramis, quando l'ebbe messo al corrente di quanto era avvenuto nella capitale dopo la loro partenza. Ma pensate che gli sia capitata qualche disgrazia? Chiese Aramis. Athos è così imperturbabile, così prode, e maneggia con tanta maestria la spada. Sì, certo, e nessuno meglio di me riconosce il coraggio e la bravura di Athos, ma preferisco sulla mia spada il cozzo delle lance che quello dei bastoni. Temo che Athos sia stato strigliato da una ciurmaglia di servi, e i servi sono gente che picchia sodo e non finisce tanto presto. Ecco perché, ve lo confesso, vorrei ripartire il più in fretta possibile. Mi sforzerò di accompagnarvi, disse Aramis, benché non mi senta affatto in grado di montare a cavallo. Ieri provavo la disciplina che vedete a quella parete e il dolore mi impedì di continuare quel pio esercizio. Il fatto è, caro amico, che non si è mai visto cercare di guarire una schioppettata con le sferzate, ma eravate malato e la malattia indebolisce il cervello, perciò vi scuso. E quando partite? Domani all'alba. Riposate del vostro meglio stanotte e domani, se potrete, partiremo insieme. Allora a domani, disse Aramis, per quanto siate di ferro, dovete pure aver bisogno di riposo. L'indomani, quando D'Artagnan entrò in camera di Aramis, lo trovò alla finestra. «Cosa state guardando là?» gli chiese. «Perbacco! Ammiro quei tre magnifici cavalli tenuti per le briglie dagli stallieri. È un piacere da principe viaggiare su cavalcature simili. Ebbene, mio caro Aramis, ve lo procurerete, perché uno di quei cavalli è vostro. Davvero? E quale? Quello dei tre che vi piacerà. Io non ho preferenze. E la ricca gualdrappa che lo ricopre è anche mia? Certamente. Oh, voi scherzate, D'Artagnan. Non scherzo più da quando parlate in francese. Caspita, sono tre animali splendidi. Sono lieto che siano di vostro gradimento. E il re che vi ha fatto quel regalo? Oh, certamente non è il cardinale, ma non preoccupatevi della provenienza e pensate soltanto che uno dei tre è di vostra proprietà. Prendo quello che lo stalliere coi capelli rossi sta trattenendo. A meraviglia! Viva Dio! Esclamò Aramis, questo mi fa scomparire il dolore. Ci salirei su con 30 pallottole in corpo. Per Diana, che belle staffe! Olà, Bazin, venite qui, e immediatamente! Comparve Bazin, tetro e languido, sulla soglia della porta. Pulitemi la spada, mettetemi in forma il feltro, spazzolatemi il mantello e caricatemi le pistole, ordinò Aramis. «Tienimi la staffa, Bazin», disse Aramis, e balzò in sella con la solita grazia e leggerezza. Ma dopo alcune giravolte e corvette del nobile animale, il suo cavaliere risentì dei dolori talmente insopportabili che impallidì e vacillò. D'Artagnan, che, prevedendo il caso, non l'aveva perduto di vista, si slanciò verso di lui, lo sorresse tra le braccia e lo condusse nella sua stanza. «Bene, mio caro Aramis, curatevi», disse. «Andrò da solo in cerca di Athos». «Siete un uomo di ferro», gli disse Aramis. «No, ho fortuna, ecco tutto. Ma aspettandomi, come vivrete?» Aramis sorrise. «Farò dei versi», disse. «Sì, versi profumati con lo stesso profumo del biglietto della damigella di Madame de Chevreuse. Insegnate la prosodia a Bazin, questo lo consolerà. Quanto al cavallo, cavalcatelo un po' tutti i giorni e vi abituerete al maneggio. Oh, da quel lato state tranquillo», rispose Aramis. «Mi ritroverete pronto a seguirvi». I due amici si dissero addio e di lì a 10 minuti D'Artagnan, avendo raccomandato Aramis, a Bazin e allo stessa, trottava in direzione di Amiens. Come avrebbe ritrovato Athos? E anzi, lo avrebbe ritrovato. D'Artagnan l'aveva lasciato in una situazione critica, nella quale forse aveva perso la vita. Quell'idea, oscurandogli la fronte, gli strappò alcuni sospiri e gli fece formulare sottovoce dei propositi di vendetta. Di tutti i suoi amici, Athos era il più anziano e quindi il meno simile apparentemente per gusti e per simpatie, eppure egli sentiva per quel gentiluomo una spiccata preferenza. L'aspetto nobile e raffinato di Athos, quei lampi di grandezza che ogni tanto sprizzavano dall'ombra in cui egli si teneva volontariamente rinchiuso, quell'umore inalterabilmente costante che faceva di lui il più facile compagno che esistesse, quell'allegria forzata e mordace, quella prodezza che si sarebbe potuto definire cieca se non fosse stata il risultato di un eccezionale sangue freddo, tutto quell'insieme di doti attiravano più che la stima, più che l'amicizia di D'Artagnan, ne attiravano l'ammirazione. Il volto, dagli occhi penetranti, dal naso diritto, dal mento pronunciato come quello di Bruto, aveva un'espressione indefinibile di maestà e di grazia. Le mani, che non curava affatto, facevano la disperazione di Aramis, che invece curava le sue con gran profusione di pasta di mandorle e di olio profumato. Il timbro della sua voce era acuto e insieme melodioso, e ancora la cosa indefinibile in Athos, che si teneva sempre modestamente in ombra, era quel saper vivere raffinato, quella conoscenza dei modi del bel mondo, quelle abitudini signorili che quasi a sua insaputa trapelavano dal suo atto più insignificante. Inoltre, la sua onestà era inattaccabile. In quel secolo in cui gli uomini d'arme transigevano tanto facilmente con la religione e la coscienza, gli amanti con la delicatezza che oggi è d'obbligo e i poveri con il settimo comandamento di Dio. Athos era quindi un uomo eccezionale. E tuttavia si vedeva quella natura così nobile, quella creatura così bella, quell'animo così raffinato, tendere inavvertitamente verso la vita materiale come i vecchi tendono verso l'imbecillità fisica e morale. Nei momenti di depressione che erano frequenti, tutto il brio di Athos s'offuscava e le sue doti brillanti si spegnevano come in una notte profonda. Allora, svanito il semidio, restava a malapena l'uomo. Verso le 11 della mattina, D'Artagnan e Planchet furono in vista di Amiens. Alle 11:30 erano alla porta della dannata locanda. D'Artagnan aveva spesso meditato nei confronti del perfido oste una di quelle belle vendette che consolano solo a pensarlo. Entrò quindi nella locanda col feltro calato sugli occhi, la mano sinistra sul pomo della spada, mentre con la destra faceva sibilare il frustino. «Mi riconoscete?» disse all'oste che si faceva avanti per salutarlo. «Non ho l'onore, monsignore», rispose costui con gli occhi ancora abbagliati dallo splendido equipaggiamento con cui D'Artagnan si presentava. «Allora due parole vi ridaranno la memoria. Che ne avete fatto di quel gentiluomo al quale aveste l'insolenza all'incirca 15 giorni fa di intentare un'accusa di falsario. L'oste impallidì, perché D'Artagnan aveva assunto un atteggiamento quanto mai minaccioso e Planchet imitava il padrone. «Ah, monsignore, non parlatemene!» esclamò l'oste in tono lacrimoso. «Ah, signore, come ho pagato caro quello sbaglio! Povero me!» «Che ne è di quel gentiluomo, vi chiedo? Degnatevi d'ascoltarmi, monsignore, e siate clemente. Su, sedetevi di grazia!» D'Artagnan, muto per la collera e per l'inquietudine, sedette, minaccioso come un giudice. Planchet si piazzò con aria minacciosa accanto al seggiolone. «Ecco la storia, monsignore», riprese l'oste tremante, «perché adesso vi riconosco, siete il gentiluomo che è partito quando io ebbi quella maledetta disputa col signore di cui parlate». «Sì, sono io. Quindi sapete che sarò spietato se non direte tutta la verità. Vogliate ascoltarmi? E vi dirò tutto. Ascolto. Ero stato avvertito dalle autorità che un famoso falsario sarebbe arrivato alla mia locanda con parecchi compagni, tutti travestiti da guardie o da moschettieri. I vostri cavalli, i vostri servitori, le vostre facce, signori miei, tutto mi era stato descritto. E poi, chiese D'Artagnan, il quale capì al volo donde venissero quelle esatte segnalazioni. Secondo gli ordini delle autorità che mi mandarono rinforzo di 6 uomini, presi le misure che ritenni opportune per acciuffare i presunti falsari. Di nuovo, disse D'Artagnan, a cui la parola falsario faceva salire il sangue agli occhi. Perdonatemi, signore, se dico simili cose, ma sono proprio la mia giustificazione. Le autorità mi avevano intimidito e voi sapete che un albergatore deve essere in buoni rapporti con le autorità. Ma ancora una volta, questo gentiluomo dov'è? Disse D'Artagnan. Che gli è successo? È morto? È vivo? È in cantina, signore. Come, disgraziato? Da allora lo tenete rinchiuso in cantina? No, signore, bontà divina, noi tenerlo chiuso in cantina... Ma sapete cosa sta combinando nella cantina? Ah, se riusciste a farlo venire fuori, signore, ve ne sarei grato per tutta la vita. Vi adorerei come il mio santo patrono. Perché, signore, dovete sapere che in cantina ci sono tutte le nostre provviste. Il vino in bottiglie e il vino in botti, la birra, l'olio e le spezie, il lardo e le salsicce. E poiché ci è vietato scendere, siamo costretti a rifiutare cibo e bevande ai viaggiatori che ci capitano, e così di giorno in giorno la nostra locanda va in rovina. Ancora una settimana con il vostro amico in cantina e siamo fritti. «Mio caro Athos», disse D'Artagnan, «apritemi la porta, ve ne prego». «Immediatamente!» rispose quegli. Si udì allora un gran fracasso di fascine smosse e di travi cigolanti. Erano i contrafforti e i bastioni di Athos che l'assediato demoliva spontaneamente. Un attimo dopo la porta tremò e si vide spuntare la pallida testa di Athos che esplorava con rapida occhiata i paraggi. D'Artagnan gli si buttò al collo e l'abbracciò affettuosamente, poi volle trascinarlo fuori da quell'umida dimora e in quel momento si avvide che Athos barcollava. «Siete ferito?» gli chiese. «Io? Niente affatto. Sono ubriaco fradicio, ecco tutto. E mai nessuno ci ha messo tanta buona volontà per riuscirci. Viva Dio, oste! Soltanto io devo averne bevuto almeno 150 bottiglie. «Misericordia!» esclamò l'oste. «Se il servo ne ha bevuto soltanto la metà, sono rovinato. Grimaud è un domestico di una casa altolocata e non si sarebbe permesso lo stesso mio trattamento. Ha bevuto soltanto alla botte Guardate, credo che si sia dimenticato di rimettere il turacciolo. Sentite, la botte cola. D'Artagnan sbottò in una risata che tramutò in febbre il brivido dell'oste. In quel mentre comparve Grimaud dietro il padrone, il moschetto in spalla, la testa barcollante come quei satiri ebri dei quadri di Rubens. Davanti e dietro i suoi abiti trasudavano un liquido grasso che l'oste riconobbe essere il suo migliore olio d'oliva. Il corteo attraversò la sala grande e andò a installarsi nella migliore camera dell'albergo che D'Artagnan occupò d'autorità. Intanto l'oste e la moglie si precipitarono con le lampade nella cantina, a loro preclusa per così lungo tempo, dove li aspettava una visione orrenda. Al di là delle fortificazioni, attraverso le quali Athos s'era aperto il varco per uscire, costruite con fascine, con assi e con botti vuote ammassate, secondo ogni regola dell'arte strategica, si vedevano qua e là galleggianti nelle pozze d'olio e di vino gli ossi di tutti i prosciutti mangiati, mentre un mucchio di bottiglie rotte ricopriva l'angolo sinistro della cantina e un barile con la spina aperta perdeva dall'apertura le ultime gocce del suo sangue. L'immagine della devastazione e della morte, come dice il poeta dell'antichità, vi regnava come su un campo di battaglia. Di 50 salsicce appese ai travicelli, ne restavano appena 10. Allora gli urli dell'oste e dell'ostessa trapassarono una volta della cantina. Perfino D'Artagnan ne fu commosso. Athos non girò neppure il capo. E adesso raccontami, D'Artagnan, che ne è stato degli altri? Avanti. D'Artagnan gli raccontò come avesse trovato Porthos a letto con una slogatura e Aramis a un tavolo fra i due teologi. «Sta bene», disse Athos. «Porthos e Aramis sono a posto. Ma voi, amico mio, che avete? E che cosa vi è successo? Vi vedo con una faccia tetra». «Ahimè», disse D'Artagnan, «sono il più infelice di noi tutti, io. Tu, infelice, D'Artagnan, so via. Come mai sei infelice? Dimmelo». «E più tardi». «Più tardi? E perché più tardi? Perché credi che io sia ubriaco, D'Artagnan? Ricordati questo. Ho le idee più chiare quando ho bevuto. Su, parla, son tutto orecchi». D'Artagnan raccontò la sua avventura con Madame Bonacieux. Athos l'ascoltò senza batter ciglio. Poi, quando ebbe finito, «Miserie tutto questo», disse. «Miserie». Era la frase di Athos. «Voi dite sempre miserie, mio caro Athos», ribatté D'Artagnan, «tacete, voi che non avete mai amato». L'occhio spento di Athos si accese all'improvviso, ma non fu che un lampo. Ridiventò subito opaco e vago come prima. «È vero», disse calmo, «non ho mai amato io». «E allora vedete, cuore di pietra, che avete torto a esser duro con noi altri, cuori teneri. La vostra disgrazia fa ridere», disse Athos con una scrollata di spalle. «Sarei curioso di sapere ciò che ne direste se vi raccontassi una storia d'amore. Capitata a voi o a uno dei miei amici, che importa? Dite, Athos, dite». «Beviamo.